c'è al di là del bene e del male, oltre questo blu che riflette e sale, oltre i muri che non vedo, anche quelli della mente, oltre a quello che ci fa incazzare per niente. Cosa c'è al di là del destino? C'è la volontà, le linee di una mano, la ragione, i sentimenti, le bugie, i tradimenti. Ci sono troppe cose in una vita intera. E allora avanti, avanti, avanti, oltre i confini e questi anni violenti, perché so già che oltre il bene e il male ci sei sempre tu, che non mi lasci giù, che non mi lasci giù. Cosa c'è al di là di ogni mia risposta? C'è la verità, che spesso è un punto di vista. Ho fatto molte cose, inventando il mio domani. Far dire, costruire pure con le mani. Ma la vita ha fatto naufragare i miei piani. Al di là.